del loro paesino, accontentati di creare un semplice evento. Per questo palchi di balconica sono i balconi delle case del corso. Antenna migrante. Qual era quella? Simpatico. Radio Antenna migrante. Qual era quella cartone animato che li cazzo lì là così? No, i Gremlins, era un altro. Tu sei più a favore dei corridoi umanitari, deduco. Io sono più a favore dei corridoi open space, diciamo con un'apertura, corridoi particolari. Diciamo che per te i balconi andrebbero posti alla fine di un corridoio umanitario per dare luce? Nella maniera più assoluta, sì. Cioè, no ai barconi, speriamo che la gente non debba più barconare, ma preferibile barcollare per dopo le feste, ma non barconare. Quello è auspicabile. Vito, qual è il cibo che rappresenta meglio la tua cultura? La mia cultura, qua, tra quasi cavalli e usavo sì che non ce ne mancano poche di scelta. Quante volte a settimana mangi i tortellini? Pochissimi, soltanto la domenica, solo se capita. Ma è più una punizione o un premio per te? Una punizione. E preferisci quando capita in brodo, col burro, con un ragù rosso? Soltanto con il sugo. E su con i funghi è meglio. Il ripieno di funghi? No, no, con i funghi proprio, con dentro il sugo. Ma con il ripieno di carne, di maiale. Pure la ricotta. Davide Giarati. Siamo con Elisa Panzariello del blog, del food blog Il Panzariello. Elisa, qual è secondo te il cibo che... Sai che c'è stato un grande dibattito rispetto al tortellino, se con la carne di pollo, con il maiale. Da esperta dell'argomento, qual è il tuo punto di vista? No, mi dispiace contraddirti, però io non sono esperta dell'argomento. Infatti, il mio blog è dichiaratamente un blog poco serio e quindi di conseguenza non riesco a rispondere alla tua domanda. Mi Non riesci dispiace. a rispondere in modo serio, in modo poco serio? In modo poco serio dico che fondamentalmente il tortellino, vino, bicchiere, balconica, 1 euro, penna e tabacco. Ma secondo te quando uno conosce la musica si può sentire straniero da qualche parte? Mai. Quando si gusta, mai. Quando si suona, e soprattutto se lo si fa per il gusto di farlo, si interagisce in maniera spontanea con tutti. Cioè, c'è una. Soprattutto se chi ascolta ha quell'empatia che accomuna poi a chi piace la musica, insomma. Perché chi suona, chi canta, chi ascolta la musica ha uno scopo comune, cioè quello di stare insieme, di condividere quei momenti. Adesso credo un po' meno, voglio dire, sto fatto che noi siamo contrari agli immigrati, cioè, solo per una mera questione economica. Secondo me è una cosa stupida, perché noi siamo stati il primo popolo, il primo paese al mondo che ha immigrati di tutti quanti gli altri. Quindi mi sembra alquanto strano che noi. Poi noi i problemi in Africa li abbiamo creati noi altri occidentali. Quindi sto fatto che noi non li vogliamo accogliere. Allora evitiamo di andare a derubarli in casa loro. Non ci riduciamo al fatto che loro vengono in Italia. Ma risolviamo il problema a monte. Cosa possiamo fare noi? Rubare meno in casa loro. Petrolio, diamanti. Noi non ci scandalizziamo del fatto che siano bambini piccoli che vanno in miniera a scavare i diamanti o i bambini del Bangladesh che cuciono i palloni delle grandi ditte Adidas, Nike e compagnia bella e lavorano 8-10 ore per un dollaro e poi hanno le mani rovinate da piccoli. Di questo non ci scandalizziamo. Non ce ne frega niente. Noi badiamo solamente se, boh, come è stato il caso dei carabinieri, è stato ammazzato da un nordamericano, ma la prima notizia che è uscita fuori sono stati due nordafricani. Poi detto da un ministro dell'interno, che è ancora più grave, è gravissimo, perché tu, ministro dell'interno, se dai una notizia falsa, sei poco credibile. Che credibilità hai? Senti, io pensando a questo losco figuro qua e pensando a quello che dici tu di dialoghi e di linguaggi che sono universali come la musica, mo stavo pensando alla polemica che c'è stata sui tortellini di carne, di pollo, di maiale. Ma il cibo può essere una cosa che divide le persone? Il cibo secondo me non deve essere una cosa che divide le persone. E le modalità che si utilizzano per produrre il cibo che possono dividere. Cioè, io non condivido che bisogna agli animali tu dai gli antibiotici, è una cosa aberrante, li fai vivere in condizioni proprio veramente. Qual è il cibo che rappresenta la cultura di Balconica? La molignana imbottonata. Secondo te come è inciso la carne di maiale rispetto alla tua formazione culturale? In nessun modo. Grazie. Ci stiamo attrezzando per la linea halal e anche tutte le religioni, tutti i problemi, non lo so. Giudichi inopportuno la recente protesta che c'è stata su fateli scendere, l'hashtag fateli scendere, rispetto a un festival come Balconica che porta le persone sui balconi? Lo trovate come un attacco diretto al vostro stile di fare festa? Ma no, guarda, quando sei su un balcone alla fine decidi che vuoi fare, vuoi salire sul balcone successivo, sul balcone superiore o... puoi scegliere, puoi andare di lato, magari di più. Voi siete più per la libertà di scelta. Per la libertà di scelta del balcone, però. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.